Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. E allora i temi di questa giornata economico-finanziaria: più tranquille oggi le borse, addirittura guadagnano a Milano lo 0,40%, a Parigi lo 0,80%, a Francoforte lo 0,30% e a Londra lo 0,60%, leggerissimamente positiva l'America, più 0,13%, l'euro recupera a quota 1,4326, quindi si leccano le ferite ai mercati dopo lo spavento preso ieri dopo che l'agenzia di rating Standard & Poor's ha rivisto le prospettive sul debito americano. Non ha abbassato il voto sul debito americano, ha rivisto le prospettive in negativo, però tanto è bastato per far vendere ieri sul mercato. Oggi i recuperi più forti non arrivano sui bancari, ma su Pirelli più 2,75%, Luxottica più 2,40%, Tod's più 2,30%, Fiat più 1,90%, nel giorno in cui sono usciti i dati sulle matricolazioni auto europee, adesso li commenteremo. Tenaris più 1,90%, dicevo, Snam Rete Gas più 1,90%, Exor più 1,40%, come Intesa San Paolo, l'1,30% lo guadagna Campari, l'1,20% il Banco Popolare e ancora UbiBanca più 0,90%. Chi cede anche oggi? Telecom Italia meno 2,11%, Estima Electronics meno 1,5%, Fondiaria Assai meno 1,40%, Autogrid meno 0,80%. Le banche che ieri molto erano scivolate oggi sono ferme: Popolare di Milano ferma, Eni ferma, che non è una banca chiaramente, Monte dei Paschi più 0,1%, Unicredito più 0,1%, come dire, non andiamo a vendere ma non ci fidiamo a comprare per quello che riguarda i titoli bancari. Di cosa ci occuperemo oggi oltre che di mercato? Beh, con somma gioia di molti di voi, partiremo col nucleare. Il governo infatti ha bloccato ogni ipotesi di andare avanti. Poi non si capisce, che c'è una dichiarazione un po' strana del ministro Prestigiacomo, perché il governo ha inserito oggi nella moratoria, ve l'hanno raccontato i nostri GR, nella moratoria già prevista nel decreto legge Omnibus, l'abrogazione di tutte le norme previste per realizzare gli impianti nucleari. E quindi tutto cancellato, non se ne fa nulla. Su questo sono intervenuti appunto non solo il ministro Tremonti ma anche il ministro Prestigiacomo. Poi vi spiegherò il mio dubbio sulla Prestigiacomo, perché il ministro ha detto oggi a Roma: la ricerca sul nucleare va avanti indipendentemente dalle scelte del paese. La ricerca va bene, ma insomma di solito la ricerca deve avere anche uno sbocco operativo. E ha detto: la ricerca sul nucleare procede in modo indipendente dalle scelte del paese. Ricordo che la Prestigiacomo, forse in maniera un po' improvvida, quando arrivò lo tsunami in Giappone e poi tutti i problemi della centrale di Fukushima, disse: il nostro programma sul nucleare va avanti. Poi fu costretta a correggersi, vi furono anche delle indiscrezioni di stampa su questo. Però la domanda in apertura sarà: giusto bloccare il nucleare per Fukushima? Probabilmente molti di voi diranno sì, e va bene anche questo. Forse c'è stata una componente troppo ideologica nell'approccio in un senso o nell'altro verso il nucleare. A nostro avviso sì, e cioè il nucleare è diventato una bandiera politica più che essere semplicemente una formula, una strada da percorrere in un paese che, lo ricordo, produce pochissimo, nemmeno il 10% da fonti cosiddette pulite. Tutto il resto lo facciamo bruciando petrolio, e non è che sia esattamente la fonte più ecologica del mondo. So benissimo l'obiezione: la centrale, se per caso ha un problema, crea un disastro, ma non un disastro epocale. In Giappone avremo i danni per centinaia di anni, non è che mi sfugga il punto. Forse, ripeto, c'è stato comunque un approccio molto ideologico di chi il nucleare non lo voleva o di chi il nucleare lo voleva proprio per dare un segno politico più che di approvvigionamento energetico. Comunque, vi arriveremo adesso in apertura, poi come sempre la borsa, poi i dati auto sulle matricolazioni, l'incontro tra Sergio Marchionne e la numero uno della CGIL Susanna Camusso a Torino. Secondo ora del programma, la nuova richiesta, c'è chi dice attacco, critica, di Confindustria al governo: fare di più. Cerchiamo di capire anche che cosa significhi fare delle riforme a costo zero. Leggerò di nuovo la lista della spesa pubblicata da Sole 24 Ore degli interventi in materia economico ma anche normativa di normativa fiscale e di burocrazia annunciati dal governo è ancora fermi, perché diventerà un tormentone, visto che non si può sempre obiettare che le riforme non si fanno perché costano. Alcune riforme costano niente, altre costano molto molto poco. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Sì, vedo già che alcuni ascoltatori hanno colto anche l'altro aspetto della domanda dell'approccio sul nucleare, e cioè un governo, la politica, quando stabilisce le politiche industriali, quindi anche energetiche per il paese, può muoversi solo sulla pancia, sulla cronaca, sul ventre, o deve avere la freddezza come hanno avuto in Francia. Cioè, io ricordo che Sarkozy, non sto dando ragione ai francesi, dico semplicemente che Sarkozy ha detto noi di limitare quello che è lo sviluppo del nucleare e l'approvvigionamento energetico del nucleare, non ci pensiamo nemmeno, Fukushima o non Fukushima. Allora, è giusto lavorare sulle emotività, è giusto lavorare sul giorno per giorno, sul consenso settimanale, oppure se vuoi darti una prospettiva di sviluppo seria, è meglio che ogni tanto ti adatti anche, ti accetti anche la critica nel breve per magari il plauso nel lungo. Allora, mi sono già beccato dell'imbecille, fatemi almeno esprimere le idee, perché scrive un ascoltatore, solo gli imbecilli non cambiano idea, lei non solo sul nucleare è un emerito imbecille. Io non ho ancora detto cosa ne penso del nucleare, ho posto due o tre temi di discussione, se si può andare avanti in questo modo, ma sento già che sarà una puntata interessante, quantomeno dannosa per la mia autostima. Andiamo avanti con i temi. L'oro, nuovo record a quota 1498 dollari l'oncia, siamo sempre sui 1500 dollari. Il petrolio in leggero calo a 105 dollari al barile. La cosa interessante oggi sul fronte internazionale riguarda la Cina, perché secondo quanto riporta il China Daily Europe, la Cina sta cercando di aumentare i salari medi del 15% ogni anno nel tentativo di raddoppiare la retribuzione dei lavoratori entro la fine del 2015, cioè raddoppiare gli stipendi entro il 2015. Un elemento non da poco, perché da anni diciamo la Cina potrà essere una vera opportunità quando avrà dei consumi, una domanda interna molto importante. Beh, questo va nella direzione di creare dei consumatori cinesi oltre che dei lavoratori e operai cinesi. Ancora, il presidente Barack Obama, qui ci spostiamo all'America, ha sottolineato come gli americani e anche Washington, quindi anche la capitale politica, debbano iniziare a vivere in base alle proprie possibilità. Ci sarà un taglio delle spese, ha detto Obama, in ogni possibile area, non abbiamo denaro da sprecare, servono responsabilità condivise. E poi il suo ministro del tesoro, il timido Timothy Geithner, ha detto manterremo il voto AAA, ne sono sicuro, il voto che è il massimo voto sull'affidabilità. Io sono contento per Geithner, gli ricordo che il voto non se lo dà da solo, ma glielo danno le agenzie di rating. E poi ha aggiunto che sarà possibile comunque un accordo anche con l'opposizione repubblicana per ridurre il debito. Nel frattempo, col carry trade o senza carry trade, cioè quella pratica in cui le banche d'affari prendono soldi in prestito a costo praticamente zero dalle banche centrali e poi investono in obbligazioni magari anche dei paesi a rischio, che non mi sembra un grande modo di far finanza, è capace anche mia nonna. Comunque, grazie anche a carry trade, Goldman Sachs ha chiuso il primo trimestre con 2 miliardi e 740 milioni di utile, sopra ogni stima, anche se leggermente in calo rispetto ai 3 miliardi e 4 dei primi 3 mesi del 2010. I debiti sovrani europei, allora, poi arriviamo al nucleare, vedo già molta attesa. Oggi l'Italia ha collocato, poi ne parliamo, la Grecia ha collocato in primo luogo titoli di Stato a 13 mesi per 1 miliardo e 6. Allora, com'è andata quest'asta? Il tasso è salito al 4,1%, quasi mezzo punto in più rispetto al 15 febbraio. La domanda però è stata buona perché ha superato l'offerta di 3,5 volte. E tra l'altro la quota di investitori stranieri è sta quasi del 40%. E questo ha permesso subito alla Atene di ribadire che non ha alcuna intenzione di ristrutturare il debito, cioè di dichiarare che è praticamente insolvente, che bisogna rinegoziare tutto. Nel frattempo oggi il direttore generale di Unicredit, Roberto Nicastro, ha detto che insomma il sistema economico italiano è poco esposto verso la Grecia. Non risulta infatti l'Italia, in Italia ha un'esposizione di circa 20 miliardi di euro, 5 miliardi le banche, 8 miliardi le assicurazioni, 6 miliardi i fondi comuni di investimento, ben più ne ha la Francia, 50 miliardi, e anche la Germania, 28 miliardi. Bruxelles abbiamo raccontato nel corso del GR, ma insomma oggi il ministro dell'economia Giulio Tremonti è intervenuto alla Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo e ha ribadito la necessità di pensare anche a delle obbligazioni europee, gli eurobond, e poi di prendere in considerazione la ridefinizione di un nuovo trattato europeo. Ha detto che i trattati europei sono stati scritti prima della globalizzazione e sono il prodotto di un mondo passato, pur essendo stati adattati. E poi adesso la composizione di Confindustria sui conti pubblici in generale e sulle richieste al governo. Sentiamo il direttore generale Giampaolo Galli oggi in audizione al Senato. Condividiamo l'affermazione contenuta nella premessa al DEF, al documento di economia e finanza, che senza stabilità della finanza pubblica non è possibile lo sviluppo economico. Sottolineiamo che specie nelle condizioni attuali è vera anche la relazione inversa: senza crescita è molto difficile conseguire la stabilità finanziaria, una stabilità finanziaria duratura. Le misure previste nel migliore, sia pure in termini e in linee generali, nel PNR produrranno una maggior crescita accumulata da qui al 2020 di 2 punti percentuali, posto che si realizzino. Si tratta evidentemente di un aumento molto modesto. A nostro avviso ci vuole molto di più, anche solo per rendere sostenibili gli interventi di finanza, gli obiettivi e gli interventi di finanza pubblica. Sottolineo nuovamente che i titoli che ci sono, diciamo, i capitoli che sono indicati nel PNR, a nostro avviso sono quelli giusti e sono condivisibili. Il punto è che vanno riempiti di contenuti. E poi nella seconda ora del programma cercheremo di capire anche concretamente quali contenuti vuole la Confindustria. Tra l'altro un giudizio identico a quello di Confindustria oggi lo ha fornito anche Rete Imprese per l'Italia, che raggruppa Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, CNA, e lo ha detto infatti Cesare Fumagalli in audizione sempre alle commissioni congiunte di Senato e Camera. Mancano misure in questo governo per la crescita. Il rigore sui conti pubblici è apprezzabile, ma non si vede alcuna scossa all'economia. E poi concludiamo con le notizie in breve. I dati auto a marzo: le vendite in Europa tornano in rosso, meno 4,7%, va bene la Germania più 11% quanto auto e la Francia più 6, l'Italia la peggiore meno 27%, la Gran Bretagna meno 8, la Spagna meno 29%. Bene la Alfa Romeo per quello che riguarda il gruppo Fiat, più 65%, profondo rosso per Lancia meno 24%, per Fiat meno 27%, la quota Fiat a livello europeo scende al 6,7% e scende parecchio, eh? Noi continuiamo a dirlo, dopo i modelli contrattuali Marchionne deve parlare di modelli auto, e è scesa. A marzo del 2010 la Fiat aveva il 7,9% della quota europea, mo siamo scesi al 6,7%, più di un punto in meno. Allora, partiamo con il nucleare, lo stop del governo al nucleare, vedo già moltissimi messaggi, c'è chi parla di leucemie, siamo tutti d'accordo che il nucleare sia un prodotto a rischio, però che produrre energia con il nucleare sia tutto tranne che diciamo privo di effetti, ma la domanda è: le politiche energetiche si decidono sulla base dell'emotività? Anche uno può rispondere anche sì, ci mancherebbe. B, attenzione che altri paesi, non dei marziani come i francesi, come altri paesi europei, hanno detto: noi continuiamo a produrre più del 30-40% di energia con nucleare, non ci pensiamo nemmeno a cambiare idea solo per Fukushima, metteremo maggior sicurezza e attenzione sulle nostre centrali. Giusto o sbagliato che sia, esiste anche quella posizione. 349-238-6666 per i vostri SMS. La fonte nucleare di energia è una fonte a cui nessun paese può rinunciare. Quanto all'anno di partenza dei lavori, il ministro Scajola è fieramente intenzionato a far partire i lavori nell'ambito di questa legislatura, cioè entro 3 anni. Io trascino negli occhi. Tutti riflettiamo e noi stessi siamo partiti dalla sicurezza. Il governo ha una posizione sola ed è quella espressa dal collega Romani, dalla collega, dai colleghi Romani, Prestigiacomo, che hanno la primaria responsabilità e che hanno sempre ricordato come siamo partiti dalla sicurezza. E non a caso il nucleare è fatto di più generazioni, ovviamente noi siamo interessati all'ultima e a ulteriori evoluzioni sono possibili. Guai a noi se di fronte all'ipotesi di eventi straordinari rinunciassimo a fare le opere che possono essere messe in discussione da questi eventi, allora ci fermeremo anche dal fare i ponti e le dighe. Oggi all'ordine del giorno è il problema della sicurezza. Lunedì torniamo a Bruxelles per approfondire questo tema. Si è deciso di fare in maniera coordinata in Europa gli stress test che riguardano tutte le centrali di prima generazione, probabilmente. Il problema non è più italiano, il fatto che noi non si abbia centrali è assolutamente indifferente, perché abbiamo le centrali a 100-200 km dal confine, quindi qualsiasi problema ci possa essere potrebbe riguardare anche noi. Abbiamo anche sottolineato il fatto che in Giappone quello che è accaduto non è stato tanto per il terremoto gravissimo, eccezionale, spaventoso, ma per il fatto che poi è stato seguito dallo tsunami che ha interrotto i circuiti di raffreddamento, quindi è stato un evento di una straordinarietà incredibile. Cercavo in te e sarà anche così, ma noi abbiamo usato arrivederci amore ciao, perché insomma queste dichiarazioni che avete sentito, a parte Berlusconi che era di un anno fa esattamente, 26 aprile 2010, la centrale in Italia entro 3 anni, ma le altre dichiarazioni, quindi quelle del ministro Sacconi e del ministro Romani, sono di poco fa, cioè di un mese fa, il 15 marzo. Sacconi che dice: guai se ci fermassimo di fronte alle emotività, e il giorno dopo il ministro Romani che dice: la priorità è la sicurezza dei cittadini, però attenzione, ci sono centrali molto molto vicine a noi, per cui facciamo ragionamenti con anche con la testa. E lo stesso Romani che il 15 marzo aveva detto è inimmaginabile tornare indietro. Ripeto, nonostante gli insulti, che il tema qui non è essere pro o contro il nucleare, il tema è: si decide una politica energetica sulla base di Fukushima e allora io mi preoccupo seriamente, oppure si decide una politica energetica sulla base di un insieme di considerazioni. Professor Alberto Clò, buonasera. Buonasera. Ex ministro dell'industria, lei ha scritto moltissimo anche in tema di nucleare e insegna economia applicata all'Università di Bologna. Risponde alla prima domanda e poi andiamo avanti con altre considerazioni. Cioè, al di là se uno piace o no il nucleare, si può lavorare solo sulla pancia? Lei può anche dire di sì, perché con quello che è successo ormai il nucleare lo dobbiamo abbandonare, tranne eventualmente, evidentemente, i cugini francesi. Prego. Beh, sicuramente non si può far finta di niente. Io rimango sconcertato, se non basito, sia da queste dichiarazioni. Cioè, sentire responsabili del governo che parlano che la sicurezza era il primo punto dell'agenda del rientro nel nucleare, quando non abbiamo un'agenzia, è stata istituita un anno fa, non si è riusciti a renderla operativa, e sentire il professor presidente dell'autorità dire che non hanno un euro, non hanno la sede, devono incontrarsi intorno a un tavolo di un bar. Questo rende conto, non è che stiamo a fare le battaglie ideologiche sì o no, stiamo parlando dell'Italia. Spiace dirlo, ma mutuando il titolo del film dei Fratelli Coen, l'Italia non è un paese per il nucleare. Quando si sono sentite le prime reazioni, no, a Fukushima, da qui, ripeto, non si può prescindere, non si può far finta di niente. E non si può ricorrere, e parlo da nuclearista, perché io mi sono battuto nell'87, spiace dirlo, è sempre, diciamo, non elegante richiamarsi, mi sono battuto contro il referendum, esattamente contro le persone che poi l'hanno rivitalizzato, e mi oppose a quel referendum perché per molte delle falsificazioni che furono portate a, diciamo, supporto di. E quando si è rientrati male, in un modo cialtronesco, e lui che, no, mi dica in Francia, certo, ma non sono 25 anni in che non ci siamo nel nucleare. Questa è una tecnologia maledettamente complessa, con cui bisogna fare i conti, non scappando, ma vedendo le contraddizioni dei problemi. Dire che si è posta la sicurezza al primo punto è una falsità storica, perché nulla si è fatto. Io sto leggendo questo emendamento. Era già stata decisa la moratoria, che poi era di 2 anni in sostanza, dal momento che in Italia nulla, diciamo, è più definitivo di ciò che si dice essere temporaneo. Già avevo letto questo come, diciamo, una cancellazione sine die, tombale. Quando si legge questo emendamento, che si dice al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche sui profili relativi alla sicurezza mediante il supporto dell'agenzia, che non c'è, quindi di che cosa stiamo parlando? È un'avventura questa, e mi dispiace dirlo, nata male, finita peggio. Allora, si poteva andare ancora peggio, mi scusi, perché se per caso avessero fatto i contratti, lo Stato, in base a una norma di legge, avrebbe dovuto rifondere le imprese dei danni subiti. E quindi sì che avremmo dovuto noi pagare un debito nucleare, che oggi Tremonti, dopo avere 2 mesi fa, 1 mese fa, usato il nucleare, addebita agli altri paesi. Allora, io, professor Clo, ho capito il suo punto. Lei dice, io sono un nuclearista, quindi ritengo che ci siano delle ragioni in chi produce energia con il nucleare. Però, da come è nato l'agenzia senza una lira, senza una sede, da come si è sviluppato il dibattito, c'era una componente solo ideologica, cioè proprio una bandiera, e il nucleare è una cosa troppo seria per essere trattata all'italiana, tifo contro, tifo pro, e tra l'altro la gestione complessiva è stata anche peggio. Meno male che non abbiamo firmato i primi contratti con le imprese, se no ci toccava pagare anche quelli. Le chiedo, se il dialogo non deve essere ideologico, però vorrei la sua risposta dopo il meteo e la pubblicità, lei che dialogo avrebbe impostato? Cioè, quello che io mi chiedo, e ripeto, non ho una posizione netta sul nucleare. Se mi chiedete, lo vorresti vicino a casa tua? Boh, ti rispondo probabilmente no. Ho una posizione sulle politiche energetiche in un paese che, è inutile che continuiamo a raccontarci, dalle fonti rinnovabili ottiene il 7%, il 9% lo produciamo col carbone, bella roba pulita, il gas 36%, il petrolio ci fa il 42% della nostra energia. Non ho una posizione netta, però quello che vorrei capire è come fanno altri paesi, e i francesi, quando si tratta di difendere il loro giardino di casa, sono peggio anche di noi, a sviluppare la tecnologia nucleare senza, diciamo, cambiare idea ogni 3 anni, ogni anno, ogni 10 mesi, perché insomma Berlusconi un anno fa diceva entro 3 anni c'è la centrale e c'erano già le prime indiscrezioni sui siti nella penisola. La risposta dopo il metodo, la pubblicità, 349-238-6666 per i vostri sms, qualunque sia il giudizio. ...17:38 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, poi parliamo adesso di borsa. Vorrei concludere il tema del nucleare, visto lo stop definitivo. Lei, professor Clo, diceva già la moratoria, la sospensione di 2 anni, conoscendo questo paese, era uno stop di fatto. Adesso però lo stop è anche ufficiale, con la decisione, anzi, del governo di oggi, appunto nel decreto legge Omnibus. Come mai in altri paesi, non dico si riesce a fare, ma si riesce insomma anche a parlarne, e da noi questo risulta impossibile? Cioè, scusatemi se insisto con l'esempio francese, ma mi interessa moltissimo. Prego, professore. Beh, prima osservazione però che dovremmo completare l'informazione riguardo alla decisione di oggi. Sì. Beh, la decisione di oggi, che non cambia niente nella sostanza rispetto alla moratoria, ma abroga tutte le norme che erano previste nel referendum. E quindi con questa si vuole eliminare il referendum e depotenziare comunque gli altri 2 referendum, quello sull'acqua e sul legittimo impedimento. Quindi la decisione la vedo strumentale rispetto all'obiettivo di svuotare di contenuto, è possibile cancellare, abbassare il quorum, veda lei. Cioè, peggio mi sento, professore, perché se addirittura non è fatta sull'onda di Fukushima, ma è fatta per ancora, per una cosa ancora più nostra. Per fermare ci si prende, guarda. No, no, no, ma molti ascoltatori. Era stato deciso un moratorio di 2 anni che non avrebbe cambiato, il referendum ci sarebbe stato. Il grosso timore è che comunque Fukushima abbia elevato la possibilità di raggiungimento del quorum e quindi questo avrebbe impattato sia sul referendum sull'acqua, che non condivido, sia quello sul legittimo impedimento. Quindi è solo, diciamo, strumentale ragione di carattere politico. Venendo alla sua domanda, è chiaro che, diciamo, per quale ragione altrove si è riusciti e da noi no, la domanda è perché da noi non si è riusciti, perché noi siamo riusciti a non fare niente dal 73, noi nel 73 è il paese che in risposta alla prima crisi del Kippur decide di fare 62.000 megawatt, più dei francesi, non ne abbiamo fatti nessuno, quindi la lezione del passato insegna molte cose che non sono imparate. Qui, quali erano le condizioni per rientrare in modo serio? Convinto che la possibilità del nostro paese di rientrare in questo era non solo elencare i benefici, sicuramente che condivido, ma anche i costi, dire le cose come stanno, non sommare una falsità all'altra, che noi saremmo stati in grado, unici al mondo, nel giro di 5 anni, no, di aprire il primo cantiere. Non bisogna essere dei profeti per immaginare che non si sarebbe andato da nessuna parte. 2, proprio perché avevamo alle spalle un vuoto di 25 anni, che avrebbe reso complesse le cose, ma che comunque su cui si poteva anche andare, perché era un grande progetto di modernizzazione del paese. Però bisogna dire, una delle cose come stanno, quali erano i benefici e quali erano i costi, e prospettare i problemi, non nascondendoli, e le soluzioni, perché bisognava recuperare credibilità perduta rispetto all'opinione pubblica. Prima condizione era, al di là di questa, un ampio consenso politico e quindi cercare un'agenda, ed era possibile farlo, perché se si va a vedere i programmi elettorali del 2008, dicevano praticamente le stesse cose sul nucleare. Il nucleare non era nel programma del Polo, certamente non dell'Ulivo, come si chiamava, però c'era in entrambi le stesse parole. Riprendere il filo della ricerca, eccetera, eccetera. Quindi bisognava trovare un minimo di condivisione. La seconda era il consenso sociale, che non si può, qui non si può pensare a cose fatte, e invece si è ritenuto che del consenso si potesse assolutamente disinteressarsi salvo. Oggi raccogliamo un atteggiamento molto pressapochista, per cui nelle prime ore dopo Fukushima si diceva non torneremo indietro, quasi che si fosse andato da qualche parte. Noi le nostre palle abbiamo 3 anni di moratoria, perché non si è fatto alcunché in 3 anni. Quindi le prime frasi erano non possiamo tornare indietro, salvo al primo stormir di sondaggi, no, dire cancelliamo tutto, moratoria, moratoria. Io non avrei fatto la moratoria sinceramente, anche perché i tempi che avevamo davanti erano comunque biblici. e avete avrei proprio rafforzato le ragioni della sicurezza. Avrei detto no, noi proseguiamo con la costruzione della sicurezza, che è uno strumento che sia indispensabile per essere credibile rispetto all'Unione Europea. Fukushima cosa insegna? Che non si è denuclearizzati perché non si hanno le centrali. E quindi proprio come paese denuclearizzato dovevamo e dobbiamo pretendere dall'Unione Europea che le garanzie di sicurezza non siano solo per le popolazioni interessate, ma per l'intera Unione. Certo. Anche perché se la Francia, diciamo, non si mette non segue maggiori garanzie di sicurezza, noi possiamo fare le battaglie che vogliamo, le nubi ci arrivano anche qui. Allora, lei è stato facile profeta, professor Clo, lo scrivono anche alcuni ascoltatori, guardate che oggi il governo ha cancellato tutto per eliminare il rischio referendum, perché il referendum ha anche altre due voci. Adesso lei con l'agenzia assieme a voi sarà l'ufficio centrale della Cassazione a decidere se alla luce dell'emendamento presentato oggi dal governo il referendum sul nucleare salterà oppure se si terrà comunque il referendum, quello dove non si vota solo sul nucleare, ma chiaramente il nucleare avrebbe portato, non dico la certezza, ma insomma ottime possibilità di raggiungere il quorum. E però resta il mio tema, che mi dispiace non venga capito da alcuni ascoltatori: si può decidere la politica energetica di un paese basandosi sui sondaggi, sulla pancia, addirittura sul referendum? Perché se è così, non solo meglio non fare nucleare, ma meglio non fare niente, meglio non fare neanche le infrastrutture, perché se decidiamo le infrastrutture sulla base solo di quello che conviene alla pancia, domani crolla un ponte, non facciamo più nessun viadotto e nemmeno il ponte sullo stretto. Cioè, chiedo questo, professor Clo. Ha certamente ragione, ma come si può superare la pancia? Si può se si è credibili, se si è credibili nelle istituzioni, nelle professionalità. Noi non abbiamo uomini. Noi non abbiamo più le professionalità con cui costituire un'agenzia della sicurezza. Avevamo 15 istituti di impianti nucleari, ne abbiamo solamente due. Perché nascondere questo e dire che il nostro paese era assolutamente in grado, no, che in 25 anni non era successo niente, che eravamo in grado di costruire, avevamo addirittura tecnologie, tutte cose non vere. Ora, quando non sei credibile e sostieni l'incredibile, è chiaro che poi davanti alla prima avversità, questo è uno stato che davanti a Fukushima è scappato subito, che semmai doveva, di fronte a un'opportunità del referendum, difendere razionalmente le proprie ragioni. Non a me sembrava che il forum nucleare avviato da Chicco Testa avesse però questo obiettivo di mettere a confronto due idee senza nessuna verità rivelata, senza ideologismi, cercando di capire: ce l'ha la Francia, possiamo averlo noi? No, non siamo in grado di averlo. Il nucleare è un sistema, lei ha ragione, professor Clo, nel dire che la balla dei tre anni, a noi spiegarono i suoi colleghi che minimo ci volevano dai quei 10 anni, forse anche 15, per avere un sistema integrato dove anche smaltire le scorie in un paese che non riesce a smaltire le scorie normali in Campania. Per cui, cioè, lei dice affrontare il dibattito seriamente, in questo modo si è generato subito confusione e sospetto e poi al primo disastro, che è un disastro epocale, marcia indietro. Un'ultima domanda, visto che lei i temi dell'energia li conosce molto meglio di me. A questo punto, chiusa la partita, tanto insomma non siamo in grado di reggere un po' di dissenso, figurati se possiamo fare il nucleare. Chiusa la partita, ci teniamo l'energia, le centrali termoelettriche, quindi petrolio sostanzialmente, un po' di gas, qualche rigassificatore e quel poco che arriva dalle fonti rinnovabili? Io penso che bisogna tener conto di un fatto, che i sistemi energetici, quale è quello che abbiamo, sono l'esito delle scelte fatte 20, 25, 30 anni fa. Non si cambiano i sistemi energetici a piacere da un giorno all'altro. Mm. Per cui la situazione che noi abbiamo è esattamente l'esito dell'uscita dal nucleare. Diversificazione dal petrolio, uscita dal nucleare, no al carbone, restava il metano. Quello di cui oggi dobbiamo tener conto è il fatto, l'impatto, l'enorme impatto che la crisi economica ha avuto sul sistema energetico. I consumi energetici sono l'orologio del mercato, è retrocesso di 10 anni. Nello scorso anno noi abbiamo consumato come nel 1998 e le prospettive di crescita che c'erano si sono allungate di altri 10 anni. Oggi noi abbiamo una situazione in cui abbiamo un eccesso di capacità produttiva in tutte le filiere, elettrica, metanifera, petrolifera. Quindi abbiamo un eccesso di capacità produttiva che si sta, di potenza elettrica soprattutto, che si sta continuamente aumentando. Oggi noi abbiamo una potenza elettrica che è oltre 2 volte la domanda. Quindi noi dobbiamo razionalizzare l'esistente più che espandere questo esistente. 2, dobbiamo operare in un'ottica temporale che è abbastanza di breve e medio periodo, abbassando la sticella dei consumi. Perché abbassando la sticella dei consumi, quel che è possibile perché il potenziale è consistente, ma vi è una dispersione delle unità decisionali e soprattutto la lobby degli incentivi non ha operato su quel fronte. Perché la decisione degli ultimi anni, trasversale ai partiti, è stata quella di aumentare i prezzi dell'elettricità. Perché l'ignobile questione degli incentivi alle rinnovabili fa sì che si sia deciso e si sta decidendo in questi giorni per i prossimi 20 anni di dare 120-130 miliardi di euro di incentivi, rispetto al quale la scelta nucleare li avrebbe minimamente scalfiti. Quindi guardiamo le cose come stanno, più diciamo che a come le si vogliono rappresentare. Noi oggi dobbiamo razionalità esistente, abbassare i consumi, abbassando i consumi noi riduciamo l'apporto necessario delle rinnovabili che, rispetto al quale ci siamo impegnati rispetto all'Unione Europea, e dobbiamo spingere molto sugli risparmi energetici, in maniera che sì, tra l'altro può essere anche un settore in cui l'industria italiana, ma anche l'industria di base, gli artigiani eccetera, è un qualcosa che può muovere. Sì, però torniamo, e adesso io devo fermare questo approfondimento, Vittorio, ma torniamo però alla necessità di una politica, mi dispiace, energetica. Comunque uno la pensi, anche delle centinaia che stanno scrivendo al 349-238-6666, per non essere negli anni di espansione economica soggetti alla crisi del gas, dei rapporti tra Bielorussia o tra Kiev e Mosca, negli anni invece in cui è il tempo di formiche come adesso, allora abbiamo un'abbondanza di capacità energetica. Cioè qui l'approvvigionamento energetico, che per un paese, per una politica industriale è alla base, e da noi è una specie di elastico, si tira, si allunga a seconda di come butta il vento, non mi sembra una cosa seria ragionare così, comunque la si pensi. Grazie invece al professor Alberto Clò, perché ripeto, lei è uno dei massimi esperti di energia in questo paese e ci ha fatto capire anche come negli altri paesi si affrontano questi temi, che poi si decida o meno di fare nucleare, si coinvolgono a livello bipartisan anche l'opposizione, si coinvolge in maniera non ideologica l'opinione pubblica, si fanno ragionare le persone, si confrontano i temi. Qui da noi invece si sbandierano sempre iniziative e poi va tutto a gambellare, madama la marchesa. Grazie professor Col, il traffico e poi la borsa, 349-238-6666 per i vostri sms. Mamma mia, no, sorrido perché insomma c'è chi mi invita a infilarmi le barre di uranio in un posto in cui non possiamo dire perché siamo in fascia protetta, vabbè. Questo per aver parlato di come si definisce, delinea una politica energetica. Delle volte, vabbè, alcuni se lo meritano, diciamo, un modo di ragionare e anche di essere governati così. Detto questo, torneremo a parlare con un governatore, se riusciamo a raggiungerlo, Cappellacci, Regione Sardegna, che ha detto noi il referendum lo facciamo comunque perché vogliamo stare sicuri che qua non mettono neanche un impianto. Dei vari impianti ventilati sul nucleare ce n'era uno infatti a Oristano, previsto, poi sempre smentito dal governo. Comunque la borsa e poi il resto. Borse oggi un po' più caute e meno sicuramente depresse di ieri, qualche tentativo di rialzi soprattutto sui settori non bancari, più 0,30% Milano, più 0,18% Francoforte, invariata in questo momento l'America, più 0,70% Parigi. Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Oh, almeno respiro adesso, tu parli di borse, io mi riprendo dalle decine di insulti che ho ricevuto oggi più del solito. Pirelli più 3%. Sì, allora Pirelli, così come Fiat e anche la concorrente francese Michelin, hanno beneficiato del buon andamento del comparto auto in Europa, che ha guadagnato oltre l'1% nel giorno in cui si è aperto il salone dell'auto a Shanghai, e nonostante il mercato dell'auto in Europa sia tornato a scendere a marzo, infatti ha registrato meno 4,7%. Alcune buone notizie però sono arrivate dalle case automobilistiche europee, come BMW, che ha annunciato una crescita a due cifre nel 2011 in Cina. Insieme a Daimler, Renault e Peugeot ha beneficiato della crescita delle matricolazioni in Francia e Germania, mentre bisogna ricordare che Fiat ha fatto peggio del mercato e ha segnato vendite in calo del 20% rispetto a marzo 2010, un mese in cui però il lingotto aveva beneficiato ancora degli ecoincentivi. Oggi bene il settore del lusso, Luxottica più 2,40, Tod's più 2,40, 4,5% e anche P4 visto andare bene in borsa, adesso la riprendo perché tra i titoli minori, Poltrona Frau più 6,26%, P4 più 5,76%. Sì, allora il settore ha già beneficiato in particolare dei conti sopra le attese pubblicati da Louis Vuitton, MNC e Burberry, con i titoli che hanno guadagnato rispettivamente il 4,8% a Parigi e il 6,4% a Londra. Quindi Louis Vuitton ha mostrato vendite in crescita del 17% nel primo trimestre e Burberry del 30% nel secondo semestre, sottolineando che l'utile dell'intero anno sarà nella parte alta del range atteso dal mercato, quindi comunque sono arrivate notizie positive su tutti i fronti. Solo Bulgari non ha beneficiato dei rialzi, ma per un motivo semplice, nel senso che la società rimane ancorata al prezzo dell'offerta di Louis Vuitton MNC a 12,25 euro per azione, infatti Bulgari ha chiuso a 12,27 euro. Ancora, per chi invece ha già perso, al di là mi chiedete delle banche, le banche hanno recuperato pochino, Popolare Milano meno 0,08%, per quello che riguarda Monte dei Paschi più 0,50%, UbiBanca più 0,70%, Banca Popolare più 0,90%, Intesa più 1%, insomma non recuperi che riportino i titoli in equilibrio. Telecom Italia meno 2,26% ed Esti Microelectronics meno 1,60%. Sì, allora per quanto riguarda Telecom, allora secondo gli operatori a preoccupare gli investitori in vista della pubblicazione dei conti del trimestre del prossimo 5 maggio sono in particolare i dati sul business della telefonia mobile, quindi di TIM Italia. Telecom infatti nel 2010 aveva mostrato ricavi da servizi nella telefonia mobile in calo dell'8,4% per il primo trimestre. Gli analisti che hanno iniziato ad adeguare le stime si aspettano quindi in media per l'attività mobile cali tra l'8 e l'11,5%. Per quanto riguarda ST è chiuso in calo dell'1,6%, ieri la concorrente americana Texas Instruments a mercati chiusi ha pubblicato conti e indicazioni sotto le stime del consensus a causa soprattutto del terremoto in Giappone. Infatti i ricavi nel primo trimestre sono scesi del 4%, anche se la società in realtà si aspetta conti positivi per il secondo semestre di quest'anno. Quindi le cattive notizie provenienti dagli Stati Uniti hanno avuto la meglio anche sui conti di Infineon, che invece ha rivisto a rialzo le indicazioni sul primo trimestre 2011 e ha confermato il buon andamento del secondo trimestre. Adesso c'è il GR, poi altri titoli con Livia Zancaner, va bene così, c'è chi dice che sono troppo filogovernativo, chi sono troppo antigovernativo, chi dice che ero contro il nucleare 2 mesi fa e adesso sono a favore solo per andare contro il governo, vabbè io non so più che dire, stava ragionando di politiche energetiche che non si possono decidere, a mio avviso, con i sondaggi, sono cose troppo importanti per essere lasciate alle elezioni amministrative, al referendum di giugno, è il destino di un paese. Comunque, GR, poi altri titoli, poi Cappellacci, se lo recuperiamo in Sardegna, e poi comunque le richieste di Confindustria al governo 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, non possiamo tornare al tema del nucleare e vorrei concludere con Livia Zancaner il commento sulla borsa. Solo una cosa dico, due risposte brevissime. C'è chi dice ma perché non si può discutere in maniera ideologica? Perché secondo me una politica energetica va affrontata sulla base dei costi, dei benefici, anche i costi, a partire dai costi umani, non perché si è di destra o di sinistra, si è Guelfi, Ghibellini, si è pro o contro. Questo è un paese che ama molto le bandiere, poi le cambia anche molto rapidamente le bandiere. Seconda risposta invece, ma dov'è il problema energetico in Italia? È molto semplice da un punto di vista economico. Noi paghiamo per i cittadini un 20% in più rispetto alla media europea, per le imprese, quindi tutte le imprese, dal commerciante, dall'artigiano all'industriale, un 30-35% in più la bolletta energetica, con un fattore, voi capite, anche di non competizione totale. Adesso sì, sono contento che Livia Zancaner stia facendo la borsa, così respiro io. Livia, andiamo sugli altri titoli, dopo aver ricordato Telecom ed ST Microelectronics e anche i bancari, oggi Debolucci. Tra l'altro, devo dire, la Popolare di Milano è la peggiore assieme a Unicredito, eh? Sì, oggi le banche sostanzialmente hanno tenuto a Milano, la Popolare di Milano appunto ha ceduto lo 0,08%, oggi è in corso il CDA che esaminerà le rilevazioni fatte dalla Banca d'Italia e fisserà il range, la tempistica del futuro aumento di capitale che dovrebbe essere compreso tra 600 milioni e 1 miliardo di euro. L'operazione, come noto, servirebbe a rafforzare i coefficienti patrimoniali dell'istituto e rispettare quindi le indicazioni di Banca Italia. Sì, che sono arrivate e hanno dato una mano obiettivamente al presidente Ponzellini, che già li aveva stimolati a far questo. Ancora, per quello che riguarda i titoli, volete sapere i migliori e peggiori: Cell Therapeutics più 11,5, Mondo Home Entertainment più 10,5, Full Six più 9,30, la peggiore la Roma Calcio meno 11,25. Quanto ha perso la Roma dall'operazione? Allora, la Roma ha perso il 30% circa in due sedute, appunto dopo la firma dell'accordo la notte tra venerdì e sabato, e le azioni appunto si stanno avvicinando sempre di più al prezzo dell'offerta a 0,67 euro, stasera hanno chiuso a 0,8. E domani prenderanno un altro 11, se avanti così, fino a 0,67. Dada meno 6,91%, TAS meno 4,26%, Yorkville meno 4,11%. Grazie, buon lavoro a Livia Zancaner. Radio Corriere sulle 24 ore del mercato auto, vi ho già detto qualcosa, ci sono delle dichiarazioni invece che arrivano dall'incontro tra Sergio Macchione e i sindacati, quello da cui, come vi hanno aggiornato i nostri GR, è arrivata anche l'ultimatum, l'out sulla ex fabbrica della Bertone. Parliamo allora rapidamente di questo e poi cercheremo di capire che cosa vogliono gli industriali, come chiedete voi, con queste richieste alla politica, al governo, di dare un colpo di frusta, di dare una scossa all'economia. Oggi, nel giorno in cui la Fiat, ahimè, lo dico perché noi tifiamo sempre Italia, ma ha certificato un calo delle immatricolazioni più forte della media in tutta Europa, meno 27 il marchio Fiat, meno 24 il marchio Lancia, molto bene il marchio Alfa Romeo, più 65%, però in Europa Volkswagen ha fatto più 4%, BMW più 7%, Toyota più 1%, Mahle Renault meno 14% e Ford meno 16%, ferma la Opel invariata, con la conseguenza che la quota Fiat ha perso parecchio rispetto a un anno fa, dal 7,9% a livello europeo di un anno fa siamo scesi al 6,7%, dicevo, in questa giornata incontro tra Marchionne e i sindacati sull'investimento nella ex fabbrica Bertone, quella dove diciamo dovrebbe essere costruita la Maserati. Susanna Camusso, segretario generale della CGIL, dice, insomma, dovranno decidere le rappresentanze sindacali unite, la RSU. Questo vuol dire, sentiamo allora questo passaggio della Camusso, vi dico perché parla in linguaggio un po' sindacalese, RSU, questo vuol dire la rappresentanza sindacale unitaria. L'amministratore delegato della Fiat ci ha posto un tema che è il rapporto tra la decisione e il tempo per fare l'investimento rispetto alle nuove vetture. Le scadenze produttive sono sempre una cosa importante di fronte a un investimento, noi li abbiamo sollecitati al fatto che appunto ripiglino la discussione con l'RSU e decidano. L'RSU sono i rappresentanti delle organizzazioni e anche dei lavoratori, hanno più volte chiesto alla Fiat di determinare qual è l'ipotesi rispetto alla quale verificare anche il consenso e l'opinione dei lavoratori, quindi io non ne farei una questione di organizzazione, ma di andare a un punto di chiarezza anche rispetto a quali sono le decisioni. Così Susanna Camusso, e poi il numero uno della CISL, Raffaele Bonanni, che ha detto l'investimento va fatto in Italia, e il numero uno della UIL, sempre sulla ex fabbrica Bertone, mi riferisco a Angeletti, l'azienda sta aspettando una risposta conclusiva, la dovrà dare la maggioranza, o meglio l'unanimità delle rappresentanze sindacali unite, però ripeto, qualche minuto fa Sergio Marchionne ha detto, se non ci sarà in tempi brevissimi una precisa e dichiarata approvazione del piano da parte del sindacato, Fiat rinuncerà al progetto e se ne andrà altrove. Quindi avvierà la ricerca di una nuova allocazione per l'investimento relativo alla produzione della nuova Maserati nel segmento E. Va bene, si fa per dire, restiamo sul tema delle politiche per la crescita, ma non quelle energetiche, perché di nuovo oggi una richiesta netta, forte della Confindustria alla politica e al governo in caso specifico. Deludono le misure sulla crescita, così oggi in audizione al Senato il direttore generale della Confindustria Giampaolo Galli, e sui conti pubblici, insomma, le manovre da 39 miliardi in due anni pesano più che l'ingresso in Europa. Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi di Confindustria, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, adesso faremo ascoltare alcune anche delle dichiarazioni, però in realtà il mio obiettivo è molto più concreto, se vogliamo, cioè che cosa chiede il mondo dell'impresa, che grazie all'export sta generando in questo paese, grazie soprattutto all'export, quel poco di crescita che si vede, perché da più parti gli ascoltatori dicono va bene, ma insomma il governo deve fare di più, ma bisogna tenere botta anche sui conti pubblici, che cosa vogliono gli industriali? Allora esistono delle manovre, delle riforme, scusami, a costo zero, esistono delle riforme a costo bassissimo che potrebbero rappresentare quella scossa che voi chiedete. Ti chiederei degli esempi concreti dopo il traffico e le informazioni per chi è in viaggio. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, al direttore del Centro Studi Confindustria, Luca Paolazzi, a cui abbiamo sempre riconosciuto una grossa concretezza, ecco perché ti ho invitato su questo, cioè, che quando si parla di scossa all'economia, di frustata, di la gente ogni tanto, insomma, i nostri ascoltatori perlomeno non capiscono, dicono, vabbè, ma che cosa vogliono concretamente gli industriali se i conti pubblici giustamente devono essere tenuti sotto controllo? Facci degli esempi. Prima di tutto vorrei fare una piccola precisazione. Prego. L'economia italiana e l'industria italiana continuano a soffrire in questa crisi. In termini di attività produttiva siamo in media circa il 17% ancora sotto i livelli pre-crisi, e se scomponiamo questo dato nei vari settori siamo sotto di quasi il 30% nei mezzi di trasporto, negli apparecchi elettrici, nella metallurgia, un quarto sotto nella gomma, nei macchinari, un quinto sotto nella produzione di legno, estrazione minerali, nella chimica siamo un 15% sotto, nel tessile abbigliamento un 13% sotto, e se dentro queste medie settoriali andassimo ancora a scavare e guardassimo in realtà di singoli comparti, singole produzioni o singole imprese, francamente la sofferenza è ancora alta e diffusa. Il secondo aspetto, veniva citato l'export, che è l'unica componente di domanda che va, che aumenta, però anche lì le distanze rispetto ai picchi pre-crisi, in media siamo un 15% in volume, al di sotto di quello che facevamo allora, quindi stiamo risalendo faticosamente la china. Faticosamente perché il mondo dell'economia globale non è più quello che avevamo prima della crisi, era già in profonda trasformazione allora, e questo impone al nostro paese di adattarsi e adeguarsi più rapidamente. Adeguarsi e adattarsi più rapidamente significa spostare risorse da un settore all'altro, creare nuovi posti di lavoro dove non c'erano prima, e lì si vede se, diciamo, uno Stato, una pubblica amministrazione c'è, è efficiente. Quindi la prima richiesta che viene dal mondo delle imprese è la semplificazione, cioè avere, diciamo, un ambiente mm-hmm. che consenta di… Pronto? Sì, sì, ti sentiamo. Un ambiente che consenta di fare impresa in modo più facile di quello che è oggi il nostro paese. Siamo ottantesimi nel mondo da questo punto di vista. Abbiamo tempi della giustizia civile lunghissimi, che significa avere difficoltà nel rispetto dei contratti. Abbiamo una pubblica amministrazione che non risponde a chi chiede di fare un investimento, allargare un impianto, abbiamo diciamo un sistema di prelievo fiscale che è barocco, oltre che avere delle aliquote elevatissime per chi paga le imposte, e di nuovo c'è un problema di efficienza nel raccogliere le imposte, perché ad alcuni si raccolgono tutte, ad altri invece molto poco, e quindi c'è un problema di riequilibrio del carico fiscale. Tutto ciò ha a che fare con lo Stato, con come funziona lo Stato, ed è questo diciamo in realtà quello che manca. Dopodiché siamo tutti d'accordo sul fatto che ci aspettano anni di dure manovre, come è stato ribadito dal direttore generale di Confindustria Giampaolo Galli oggi nell'audizione. Altre nazioni hanno fatto scelte, pur dovendo tirare la cinghia, hanno deciso che alcune parti di economia, siccome sono vitali per crescere, sono vitali perché la gallina continua a fare le uova e senza le cui uova non si risanano i conti pubblici, hanno investito di più in ricerca e innovazione, per esempio, hanno risparmiato Italia in infrastrutture, l'Unione Europea ha raccomandato di salvaguardare le infrastrutture nei risanamenti, noi invece abbiamo tagliato gli investimenti pubblici da 38 a 27 miliardi in un paio di anni, questo significa appunto immaginarci in futuro di avere infrastrutture più povere. Allora, è chiarissimo cosa vuoi chiedere. Ci sono delle riforme a costo zero, poi vi faccio l'elenco, quello pubblicato su Sole 24 Ore, non vi preoccupate, lo dico agli ascoltatori. Domanda, perché in questo caso io faccio sempre il ruolo della controparte, l'avvocato del diavolo, però uno dice, scusatemi, sì, possiamo snellire la macchina burocratica, possiamo, però in realtà la produttività non dipende dallo Stato, dipende da voi imprenditori o da loro imprenditori. Per cui è già tanto, il governo aveva come obiettivo mettere in sicurezza i conti pubblici e Tremonti comunque ci è riuscito. Ma devo rispondere? Sì, io sto facendo, diciamo, lo so, so ma, che... diciamo, la produttività è come dire, una strana misura, che dipende sicuramente da quello che succede dentro i confini delle imprese, ma che ancora di più dipende da quello che succede fuori dai confini delle imprese. Le imprese non operano nel vacuum, nel vuoto pneumatico. Mi ricorderò sempre una battuta dell'imprenditore veneto che diceva: io risparmio 10 minuti con i miei processi produttivi, dopodiché i camion si fermano in coda e non riescono a immettersi sulla statale. Quindi diciamo è tutto il paese che deve puntare sull'innovazione, puntare innalzamento della produttività, rischiare da questo punto di vista, fare sacrifici oggi per avere di più domani, e attenzione, se non facciamo qualcosa oggi, non è che domani non avremo di più, avremo di meno. Perché quello che sta succedendo nel nostro paese è che pian piano andiamo indietro. Allora è tutto, ripeto, il paese che deve fare uno sforzo verso una maggiore produttività. Le imprese hanno sicuramente delle grandi responsabilità molte di queste si stanno agendo nella direzione giusta. Alle Assisi di Bergamo una sezione sarà dedicata proprio alle imprese che vogliamo, cioè come si devono trasformare le imprese. La ricerca che il Centro Studi ha curato per la piccola industria e Confindustria è tutta orientata in questo senso. I focus group sono stati fatti tra le imprese migliori, vanno anch'esse in direzione di selezionare le strategie vincenti per diffonderle a tutte le imprese, dopodiché però c'è tutto il resto. La scuola che forma in modo inadeguato, l'università che fa la ricerca che serve. E quindi dici Luca Paolazzi, a cui do del tu, lo spiego anche a chi scrive, perché è un collega del Sole 24 Ore, per cui è un ex collega, ho difficoltà a dare del lei, quindi attenzione, perché hai fatto bene a mio avviso a ricordare anche i dati, perché si è generata nel paese, perlomeno da quello che è il nostro termometro, la sensazione che le imprese comunque nel 2010 abbiano recuperato tutto, hanno recuperato una parte, ma dati alla mano su volume, produzione, fatturato, export, siamo tra il 15 e il 25% in meno rispetto al 2008, e siamo nel 2011, per cui ci vorrà un altro anno, ecco perché si fa più pesante l'aria. adesso arrivano richieste anche più forti. Devo dare un aggiornamento, ecco che l'ora ha fatto finalmente, ce l'ha fatta, perché sennò eravamo preoccupati, i $1,500 l'once li ha toccati adesso, e come promesso l'elenco rapidissimo, che è quello che il Sole 24 Ore sta pubblicando da giorni, gli interventi annunciati, cioè quelli su cui il governo è già d'accordo ma che sono fermi perché le priorità legislative sono altre. Allora, l'intervento per rendere più efficiente e trasparente la pubblica amministrazione, l'intervento per rendere l'autocertificazione a tutti i livelli delle amministrazioni, l'intervento per l'adeguamento comunitario di IVA e IRAP, la semplificazione e la riduzione delle procedure richieste ai datori di lavoro per informative e consenso ai fini della privacy, altro intervento annunciato e fermo. Le modifiche per arrivare al fascicolo elettronico e allo sportello unico complessivo, e poi quelle modifiche che devono eliminare gli oneri della burocrazia per le attività produttive, cioè una legge che prevede una cosa semplicissima: non si possono introdurre nuovi oneri senza tagliarne altri già preesistenti. Questa è la parte imprese e burocrazia, perché poi potrei continuare con il disegno di legge sugli incentivi per le varie categorie, il fondo unico per alimentare gli aiuti, il nostro disegno di legge, la corsia preferenziale per le piccole imprese, la Robin Tax sul prezzo della benzina, la maggiore trasparenza sulle banche e l'assicurazione, i concorsi a premi in televisione, la tutela dei consumatori al mercato, le frodi assicurative, il fatto di poter procedere d'ufficio, il disegno di legge per i servizi pubblici locali, l'abolizione per l'edilizia e per il mondo degli appalti delle riserve sui lavori, il piano casa, gli immobili vincolati, la white list, le semplificazioni, il divieto. Luca Paolazzi, buon lavoro, buone assise a tutta la Confindustria, poi noi le seguiremo a inizio maggio, a Bergamo. Grazie al direttore del Centro Studi di Confindustria, da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, noi ci risentiamo domani, speriamo in un'altra puntata che non vada dal nucleare alle richieste di Confindustria, ma chi lo sa. E buona serata a tutti voi, da domani alle 17 in poi un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24. La passione si sente.